faccio il cane, va tu calo, wow! Meno male che riesco a tirarlo te l'ho detto che te lo devo toccare. Se te lo sto dicendo so come si comporta il cane. Se ti conosce ti dà il cuore, ti fa le feste a quello che abita in fronte a casa, rimasi di vesti, si rimasi in un brodo di giuggiole quando lo vede. Però se non ti conosci non ti dà soddisfazione, capito? No? Non ti dà confidenza, no? È proprio fatto così di razza, è la sua razza. Ma io ho parlato anche con un educatore cinofilo e mi ha detto che questi cani, i Sharpei, hanno praticamente questo carattere qua. Poi lo Sharpei dice non dovrebbe essere tenuto in casa, dovrebbe vivere in campagna, all'aperto. Hanno questo tipo di carattere che sono diffidenti con tutti quanti, sono cani furti e non temono nemmeno il cane più grosso, però sono diffidenti con le persone e bisogna stare attenti. Quando viene qualcuno a casa, o io o Elena lo chiudiamo in un'altra stanza e noi, il bombolaio non rubo vini, siccome sente il rumore delle bombole comincia già a abbaiare. Il bombolaio adesso mi dice, ma il cane è chiuso? Sì, non ti preoccupare, entra, mi chiede sempre se è chiuso, capito? Sì, ebbè, già per forza, poi è un attimo, bisogna stare con gli occhi aperti quando lo si porta. E vabbè, forse avete parlato in due, se non sbaglio. Carlo, è così? Sei entrato? No, stavo andando a intervenire, ma poi ho sentito che c'era Gianni, allora mi sono tacitato. E dici. Sono d'accordo con quello che ha detto Gianni, praticamente è sempre meglio ascoltare anche consigli da esperti, no? Tipo addestratori e persone insomma competenti per quanto riguarda gli animali, capito? A meno che non si tratta di cagnolini piccolini che danno non ne possono fare, allora con quelli puoi andare tranquillo, però quando iniziano a essere di una certa stazza i cani, se si hanno bambini oppure ci sono anche altre persone adulte strane alla casa, sempre meglio stare attenti. Sì, è vero. No, vabbè, io non ho mai avuto a che fare con dei cinofili, queste cose qua, anche dei pochi che ci ho parlato, li ho sempre visti un po' esaltati. La verità, poi mi sbaglio, credo che sempre un po' esaltati, una volta mi ha fermato uno, ero col cane a Portotorre, mi ha fermato uno, io sono cinofilo, io quell'altro ancora, lo stavo guardando e col cane non si fa ben porre, no? Quando uno dice ma ti hai dato la coda al cane, ho fatto no, il cane nasce senza coda. Come è nato senza coda? È nato senza coda. È un consanguino, è nato senza coda. Ma strano sì, è nato senza coda. Cosa vuoi dire? È un consanguino. Proprio la pomese puro nasce senza coda. Vabbè, però il dogo sardo la tagliano, però il fatto del fonese puro nasce senza coda. Questo qua non spero questa cosa qui. Dice sì che il cane può nascere, sono rari casi, però non lo sapevo. Ti prendi Gianni. Per il mio è col codino senza coda. Tutti mi chiedono ma l'hai tagliato la coda? No, assolutamente non mi permetterei mai di fare una cosa del genere al cane. È nato così e in più non ce l'ha rotonda la coda, ce l'ha appiattita, non rimane rotondeggiante, mi hai capito come? Si capisce che non è che è una cosa naturale, dai. E niente, tutti me lo chiedono. Come per dire, una volta stavo passeggiando col cane e allora Musellula non ne stavo mettendo ancora. E praticamente si è fermata un'Alfa 164, sono scesi tre tipi con una valigetta in mano, e mi stavano venendo contro, perché cavolo sono questi qua, tutti e tre stavano venendo contro di me. Il cane ha visto così, normale che il cane vede tre persone che vanno contro il padrone e si gira, e il cane si stava girando e ha cominciato, siamo delle guardie zoofile, questo cane è pericoloso, come non c'è la museruola? Ho detto, beh, veramente, non è il cane pericoloso, siete voi che lo vi sapete porre, siete venuti in tre contro il padrone, è normale che il cane si giri. No, la museruola deve portare almeno appresso. Io gli ho detto, che cosa la porto a farla passeggiare? Ho preso, te non faccia lo spiritoso, ho detto, ascolti, mi dica che deve dire e basta, il cane deve prendere il microchip, se lo prenda, no, glielo prendo lì perché io non mi fido, glielo ho dovuto prendere io, non si sono manco avvicinati al cane. Idem, con patate. uguale. E vabbè. I vigili urbani, microchip, lo prenda lì, ma lui non gli ha fatto nulla, non gli ha neanche notato, perché erano in due, si sono avvicinati. Va bene, mi dia la cosa, ma perché non lo prende lei? È perché il cane è grande, è vero. Però la differenza è che io la punzerò, me la porto, me la leggo i pantaloni, capito? Io me la leggo i pantaloni, c'ho sempre la bustina, o i fazzolettini. E niente, niente. Avvicinati e prendila, no? Io, cioè, quando mai uno che va a fare una vista, che va a fare un controllo di microchip, deve avere paura di un cane grande. Boh, e vabbè, se ne vedono tanti in giro. Ti prendi, Carlo. Lasciamo perdere le guardie zoofili, per carità. Già anche qua a Sassari ogni tanto si vedono in giro e si mettono a rompere le scatole a chi è in giro col cane, eccetera. Vai a controllare invece di fare queste cose, sanziona chi porta magari gli animali, che sporca animali a piedi e magari fa ripulire quelle cose. Poi al cane già ci pensa il proprietario, perché purtroppo ci sono anche questi casi qua a Sassari. La notte quando escono nessuno raccoglie, l'indomani mattina ci sono i marciapiedi pieni, capito? E ci sono quelli che rispettano e ci sono quelli che non rispettano. Loro dovrebbero fare servizio attivo, magari di notte in pattuglia, si nascondono dentro la macchina dove portano i cani, intanto si sa dove si portano i cani e si controllano queste cose, salvo che non ci siano spazi aperti in campagna o vicino a zone insomma aperte, allora lì l'animale ovviamente lo puoi anche lasciare libero. Qua vicino a casa mia c'è un parco dei bambini e vicino c'è un parco libero e l'hanno lasciato così apposta per portare gli animali, e lì va bene, capito? Infatti c'è gente che lo porta lì, li scioglie e i cani fanno quello che devono fare, tranquilli e pacifici, e nessuno dice niente, capito? Però le guardie zoofile a volte sono una rottura di scatole. Persone che gli hanno dato, diciamo, tra parentesi del potere, tra parentesi, e quindi dai, mezzo randaggi. Comunque è vero, ci sono delle persone che portano il cane e non puliscono, e poi magari passa il disabile in sede a rotelle e si attacca tutta la sciocchezza alle mani, e per quello il più vero fastidio è per quello, perché la scarpa si pulisce, però quando passa il disabile o il bambino, che non va bene. Io per quello ho sempre il fazzolettino e la bustina per questo inconveniente quando li porto. Uiuia. E intanto anche oggi ci sono fatte, che ora sono le sei e mezzo, quindi no, sono le sette meno cinque, caspita, anche il sabato sera sta andando, faccio dalle 16 alle 24 e quindi stavo facendo, si muscano, mi sono sistemato altre cose, chiamato al computer. azienda 2023, ricopiandomene dalla vecchia, capito, tipo i turni di lavoro o orari particolari eccetera, visite, controlli, appuntamenti per certificato ISEE, insomma, mi ho messo a posto tutta questa roba, quindi ero con la radio accesa da presto, ma ho iniziato un'oretta fa, capito, per fare così passa la serata, dai, riprendi tu Gianni. Vabbè, ci siamo soframodulati di nuovo. Vabbè, comunque, per quanto riguarda il cane, bisogna essere anche educati, quando si porta bisogna anche pulire i bisogni che fa, almeno che li faccia nell'erba, che non disturba nessuno, molti nell'erba lo lasciano, io lo pulivo anche dall'erba, però adesso ho visto che nessuno le pulisce nell'erba, e allora fa nell'erba, fa solo da concime, ma è al centro di un prato, abbandonato, diciamo, che non è di nessuno, e quindi non fa nulla, capito? Esatto, esatto, sì, quando è così va bene. Qua in via Lunesole, tra via Lunesole e l'incrocio con via degli Astronauti, tirando verso il Canopoleno, lì, no? C'è quel giardinetto dove c'è la fermata dell'autobus pure, ed è un giardino pubblico dove ci vanno i bambini, c'è lo scivolo, l'altalena. A fianco c'è uno spazio che hanno lasciato apposta proprio per portarci i cani, perché quando stavano facendo lo volevano fare tutto a giardino, e invece il sindaco, mi sa che era Nicola Sanna, allora c'era, aveva detto che avrebbero fatto solo una parte a giardino, proprio perché era giusto lasciare anche una parte per i cani, no? E mi sembra anche giusto così, che si lasci qualche spazio, così come c'è su Pino, c'è un giardino dove portano i cani, dall'altra parte c'è il giardino dove vanno le persone a fare ginnastica, ed è giusto così. Sì, lo portavo anche io a Taiso lì, perché ci lavorava Elena un periodo lì vicino, e quindi quando andavo a prenderla facevo scendere il cane e lo portavo lì dove stai dicendo tu. Sì, ma c'è anche Mondezza, io ho visto che ci hanno buttato roba, non è che sia molto pulito. C'è gente sicuramente che va anche, vanno anche le persone a defecare lì perché c'è carta igienica e cose del genere, quindi. Sì, perché quella zona lì di notte ci vanno ragazzi, si portano la birra, le patatine in macchina, si parcheggiano lì perché c'è una zona dove ti consente di parcheggiare, e poi evidentemente qualcuno approfitta dei cespugli che ci sono, capito, e a dire lo fanno i cani, lo faccio anche io, ma quello è proprio l'inciviltà delle persone, perché già l'ho visto anch'io, bottiglie di birra lì, cartoni di pizza eccetera, buttano di tutto perché sanno che siccome è il giardino dei cani l'hanno preso per il mondezzaio. Però ripeto, se lì tu ci metti una persona che tutti i giorni va a pulire, capito, dai, un posto di lavoro, pulisce quelli, pulisce gli altri, capito, toglie le cose che purtroppo la gente lascia abbandonate, perché lì ci sono i contenitori per la raccolta anche differenziata, addirittura ci sono quelle macchinette elettroniche che con la carta d'identità, mi sa, inserisci i rifiuti e dopo ti ho un credito, non mi ricordo come, cioè, non ho capito mai bene come funziona, però ci sono anche cassonetti eccetera, quindi non ti costa niente andare a buttarla al cassonetto, invece no, fanno prima a buttarla nel giardino, capito, perché aprono il finestrino della macchina e lanciano. Io quei giardinetti lì, sai, lo facevo, raccoglievo, cresceva la scagliola per gli uccelli, raccoglievo la scagliola fresca, a rami, diciamo, proprio le spighe di scagliola, facevo un bel mazzetto e gliela portavo ai pappagalli, non ai miei ma agli altri, e le calopsite la mangiano, capito, ma ne vanno matte di quella scagliola. Sì, già lo so, e lì c'era, e di fronte, lo stesso, di fronte a quel giardinetto c'è un altro spazio aperto, una aiuola grande, capito, anche lì li portano i cani, ma è lì lo stesso, ho visto, ci sono delle signore, siccome ci passo spesso lì, anche in bicicletta, eccetera, quando vai in bicicletta vai piano e osservi tutte queste cose, ci sono delle signore, tanti signori, prendono il cane, lo liberano e il cane lì sguazza da solo, tranquillo, fa i propri comodi e lì non disturba nessuno perché sono spazi aperti dove c'è erba e tanto è tutto da concime e la gente soprattutto lì non ci va su quegli spazi, capito? E ho notato che ci sono molte anche badanti che portano gli anziani lì la mattina, perché io ti ripeto, quando ci lavorava Elena lì vicino, andavo a prenderla, ci andavo un po' prima, una mezz'oretta prima, di modo che così portava anche il cane, e poi quando arrivava lì il cane aveva già fatto i bisogni e tutto, e non faceva altro che portarla a casa e pulirla, boh. Quindi vedevo un po' tutto l'andazzo, capito? Sì, esatto, è lì una zona dove ci va un sacco di gente la mattina a fare ginnastica, perché ci sono quegli attrezzi all'interno del giardinetto dove ti puoi appendere, fai stretching, oppure puoi saltare, insomma ci sono un sacco di cose, addirittura c'è gente che va con la bicicletta anche dentro, capito? Insomma, sono da tenere conto tutti quei giardini lì, sia la parte che è rimasta per i cani, sia la parte che usano insomma le persone, però ho visto che c'è un po' di sporcizia. Ho visto che hanno distrutto anche quei lampioni che sono praticamente col pannello voltaico, gli hanno rotto i pannelli, ho notato anche quello, perché lì passeggiando, sai, vedi queste cose, dici che cavolo di gente c'è, non le piace alla gente tenere le cose come si deve, non possono vedere la roba fatta bene, hai capito? Avanti, capito? Sì, basta vedere ogni tanto cosa combinano a Porto Torres, a Balai. Là da poco hanno rotto la tartaruga, quelle cose, diciamo, quelle opere, quelle sculture che hanno donato all'amministrazione per la spiaggia di Balai. C'è una gente, c'è una passata di gente, ma gente brutta in giro, Guarda, in giro c'è gente bruttissima. Io quando vedo certe cose rimango basito da certi comportamenti. E docette rotte, cose rotte, qua. Non lo so. Iuia. Va bene, riprendi già, questo facciamo casino. Ecco la mia ex collega che ha aperto la gastronomia lì di fronte all'Arena Rita lì. Quest'estate gli hanno distrutto tutto, c'era la veranda, tutto quanto, adesso non si sa se qualche macchina che si è sbattuta, ma non pensano che siano vandali. E allora sono tutti vandali quelli sono tutti vandali. Ma credi, hai visto tutte le macchine che hanno bruciato, che hanno fatto, ma in giro c'è gentaglia. Ti graffiano la macchina, ti rubano le patane, ti buttano. Ma una persona di una trentina d'anni, no? Scendi la macchina. Cosa gli hai fatto? Tu a quell'uomo l'hai disonorato perché? Cosa ti ha fatto? Un uomo che ragna la mattina, torna a sé, torna a mezzogiorno, domani. Andiamo fra. Gente che si conosce, gente, brava gente, incendiata la macchina, così, quello è gioco, un altro tossico brutto di merda. Un giorno è passato il capice di Piemonte, ha spaccato 12 vetri della macchina, tutti i vetri, i finestrini, gli specchietti, li ha rotto. Non gli hanno fatto niente perché era tossico. E a Sassari c'era un periodo, capire, facevano vie intere con tutte le macchine parcheggiate, spaccati il parabrezza di davanti e quello di dietro, tutte e due, a tutte le macchine che c'erano in fila. E questo poliziotto che era affacciato alla finestra un giorno ha visto questi qua che stavano spaccando i vetri, ha chiamato la pattuglia, li hanno fermati, e di quei ciottoli rotondi, quei ciottoli del mare, quelli rotondi, dentro la macchina, ce ne avevano un sacco pieno. E gli ho detto cosa gli servivano questi ciuttoli, e loro gli hanno detto che dovevano andare in campeggio e che era per fermare la tenda. Sì, e si muove 50 ciuttoli per fermare la tenda, lascia perdere, la rimbuccia di manetti e ti l'hanno arreggati. E infatti da quel momento lì poi, no, secondo me avevano il contratto con qualche carrozziere, qualche duro, ma tutte le vie si facevano, ci hanno fatto una volta tutta via Baldetta che lungami, tutte le macchine col vetro rotto. Io me la facevo a piedi perché andavo a prendere il pullman e me la facevo a piedi, ho visto tutte le macchine, non ce n'era una che si era salvata, niente, tutte col vetro spaccato davanti e dietro. E quindi adesso se tu trovi dei ragazzi che fanno una cosa del genere alla tua macchina, cosa gli devi fare? Col vetro che rimane, col petto del vetro, o gli metti qua, o gli spieghi il collo nel dentro il finestrino, o dove... Gianni. Perché se io mi compro la macchina, no? Io mi compro la macchina per andare a lavorare, non per andare a... Un attimo, quindi tu a me mi stai rovinando, perché una volta tu a me mi vai a sabotarmi, e ciò che uso per far vivere la mia famiglia, tu così mi stai sabotando, vuoi male la mia famiglia, allora io ti faccio male. E così, secondo loro a chi lo fanno, li cercano e gliela fanno pagare cara, perché un padre di famiglia quando si vede perso, è perso, e poi ognuno si prende le sue conseguenze. Tonino, avanti Tonino Kawasaki. Ma se n'è andato, Tonino stava chiamando, ha detto Gianni e poi non è entrato. Vabbè, riprendi Carlo, sì è così, capì, ce ne sono, non fa lasciarla fuori la macchina, guarda, addirittura so che fanno un giro, cominciano, fanno Cagliari, poi fanno Olbia, poi Porto Torres e poi Sassari, bruciando le macchine. Sì, là si arriva, là, ma si sa che riporta anche il ritorno di Fiamma e pigliano i Vuguetti. Quindi Carlo, io faccio altri due passaggi, poi devo andare in sala che sta arrivando, che sta arrivando gente. Ok, riprendi Carlo. Gavino, riprendo io, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10. Ma Tonino se ne deve essere in qualche altro canale a provare, forse voleva provare qualcosa. Ho detto un attimino solo e non aveva capito forse. Io sentivo una portante, infatti ho detto un attimo e pensavo fosse Franco, però non ho sentito la voce, capito? Quindi non so se era Franco oppure se è entrato Tonino, voleva entrare Tonino. Vediamo, 10, libero, se qualcuno vuole entrare, avanti pure. Un secondo solo, aspetta, mi vado a cercare. 10 libero, Mike, operatore Gavino, avanti per chi vuole entrare, buonasera. Gianni si è spostato per vedere se lo recupera, magari è andato in qualche altro canale, magari a provare, già rientra subito anche Gianni Gavino. No, nei 40 canali non c'è, non ho provato, non c'è. Alla dubbia sta Gavino. Sta arrivando gente, siccome sono in pigiama mi devo vestire pure, che sono venuto a fare visita, e credo un tre quarti d'ora, un'oretta rimarranno, e niente, sì, devo fare, dai, un attimo di bianco che sono venuto a trovarci. Ci sentiamo dopo se coincide, se volete entrare anche dopo cena un'oretta, io già sono qua in radio, se volete, altrimenti ce la sentiamo domani. Ehi, Gavi, dai, fatela buona, divertiti, sarà la paranoia per te ricambiarti adesso, vabbè, ma fa sempre piacere quando viene qualcuno a trovarti. Ci sentiamo Gavi, dai, stammi bene, alle prossime, grazie per il questo. Avanti Carlo, sono sul 23 adesso, li ho beccati, però non ho fatto in tempo a chiamarlo. nessun problema. Ciao Gavino, fai pure tranquillo, se va bene ci risentiamo, se no a domani, non è un problema. Niente, già riprendo io, per fortuna sto finendo di scrivermi tutte queste cose, altre due righette ho finito, mi sto ricopiando tutto su un'agendina che è ciò che mi porto appresso, se no ce n'è da uscire fuori di testa. Quindi sul 23 ci sarà Tore, immagino, e company. Attenzione Carlo. Fino avanti. Nemmi contro di radio, 1, 2, 3, prova di modulazione. Ora, modulazione va benissimo, la voce è bella, è tua, è limpida come Recoaro, il segnale fondo scala qua da me. Ok, ti ringrazio. Ok, ciao Gavino, ciao Gianni, pure so chi c'è altro. Ciao Tony, ti ho detto un attimo, poco fa ti sei fuggito. No, stavo saldando un filo. Che cosa stavi mettendo? Il TAR? No, ne stavo attaccando un piede. Ah, ho capito. Ah, ci ho capito. Ma quel tunnel poi non gliel'hai fatto il collegamento? No, non gliel'ho fatto perché non ne voglia. Cazzo. Passerà la storia. Non mi è passata la storia. No, metto la parte vetrina e va bene così. Quando ne avrò voglia lo farò. Fa così. Avanti, Carlo. I microfoni sono così, io avevo preso un MB più 4, sì, nuovo, preso di seconda mano, ma il fondo ancora tutto bello lucido, eccetera, e addirittura non aveva lo spinotto, mai messo, ma perché l'avevano preso e mai usato. E poi avevo fatto lo spinotto per la radio che uso io, però praticamente funzionava come microfono normale, non potevo usare l'avanzamento dei tasti, niente, non funzionava come microfono preamplificato, per cui l'avevo tolto. E poi avevo fatto l'attacco per il Galaxy, infatti col Galaxy invece funzionava bene, cioè col Galaxy funzionava anche la preamplificazione, e tu già lo sai Gianni, l'avrei anche provato. Niente, quindi ce l'ho giù, tipo in vetrina come ha detto Tonino, e lì rimane. Cappa, ci abbiamo l'America sottofondo. Io ho lo squelch molto alto per sentire giusto i segnali sassari dintorni, perché c'era un sacco di bailame sotto stasera, si sentiva di tutto e di più, sentivo gente dal nord Europa, eccetera. Sono andato anche in banda laterale sul 27555, lì era un casino, capito? Infatti poi alla fine ho rimesso sul 10 ed ero in ascolto sul 10. Poi li fanno le chiamate e poi ti trasferiscono in un altro canale. Lo so, ma talmente c'era tanta gente che faceva la chiamata, capito, che non si capiva niente, niente che diceva la frequenza e un altro gli parlava sopra. Alla fine sono stato 10 minuti, ho detto esci, qua c'è più casino che negli altri canali, e me ne sono tornato sul 10. Prova 45 d'estate, vedete. Là d'estate già qualche volta già mi è capitato, ma è pieno di gente che pompa watt 200, 300, 500 watt con diciamo radio di quelle Colt con effetti speciali, di tutto di più. Io chi se lo compra un tunnel più 3? Buonasera Natalie, come hai detto? Io chi se lo compra un tunnel più 3 che sto vendendo todos? Io purtroppo non me ne faccio niente, perché con la radio che uso, microfoni con la preamplificazione non mi funzionano su questa radio, e quindi uso quello normale, è suo, e diciamo che va bene così. Si compra una bambola gonfiabile. Io facciamo scambio, ti do il tunnel e tu mi dai la bambola gonfiabile. Va bene Natali, va bene. Io ho il compressore per quella, anche quello piccolino. Carissimo, regalami il compressore che così la gonfio. Io c'ho un compressorino piccolino, c'ho anche quello più grandetto, però quello piccolino è per gonfiare le gomme della macchina. Me l'avevano dato con questa macchina che ho preso perché mi avevano dato il kit di riparazione, quella specie di materiale che quando buchi ti ripara il coso. Non l'ho mai usato e praticamente avevo recuperato un crick per la mia macchina e poi avevo recuperato anche un cerchione uguale, e quindi mi sono fatto io la ruota di scorta, perché se l'avessi presa con la macchina, che era opzionale, mi costava 350 euro e io ho speso, mi sa, 50-60 euro, ho preso una gomma, il cerchione e il crick. Sono andato meglio io. Figlia di nulla, scommetto. No, io l'ho presa, un amico ha portato, si fa il gommista, gliel'ho chiesto e mi ha detto: già, ti do la risposta subito, se c'è ancora quella macchina, la Giulietta che ha avuto un incidente, ti do quella di scorta che è nuova, mai usata. Sono andato al Ferrovecchio, gliel'ha chiesto, c'era, me l'ha presa, 30 euro, tutto quanto completo, il kit col click, le chiavi, c'è qualcosa in plastica dove si inseriscono il click, la chiave, eccetera eccetera, la gomma nuova, il cerchio nuovo, mai usato. Sì, io lo stesso, io ho preso il crick 20 euro, poi avevo pagato una 50, forse 40 euro era il cerchione nuovo di zecca, e poi la gomma avevo pagato 5 euro, mi sa, una gomma d'occasione, l'avevo tutta bella pulita eccetera, e ce l'ho ancora, capito? Ogni tanto la gonfio perché il ruotino non ne avevo voluto prendere, e allora praticamente non te lo danno più adesso in molte macchine, ti danno il kit di riparazione, quindi quel compressorino l'ho tolto fuori, e come diceva Nazzolino, va bene per le bambole gonfiabili, non solo per le gomme della macchina. Sì, anche io c'ho quel kit lì, non l'ho mai aperto nemmeno, mai toccato. Ce l'ho anche io quel kit, però se tu tocchi un marciapiede e squarci la gomma, voglio vedere cosa fai, se sei fuori in un punto dove non puoi fare nulla, cosa fai? Metto la ruota di scorta. Beh certo, se ce l'hai, ma se ti danno solo il kit per la riparazione non puoi fare nulla. Per quello che io mi sono preso la ruota di scorta, poi il crick l'ho preso lo stesso di una macchina incidentata, nuovo, e la mia macchina ha una specie di alloggiamento per il crick, no? Dove tu lo inserisci e poi c'è una di quelle viti a farfalla e lo bloccano, ed l'ho messo là, perfetto, non si muove neanche, la ruota ce l'ho sotto, e tutto questo kit l'ho preso, il prodotto l'ho buttato via, anche perché dopo 2 o 3 anni scade e praticamente lo devi restituire al concessionario che te lo ricambia a pagamento, ma questi sono scemi, ho detto, ho preso e ci ho buttato via tutto io, però il compressore funziona, capito, per gonfiare gomme, la bicicletta, io lo uso per la bicicletta, quello lì è piccolo, solo che ha bisogno di un alimentatore 12 volt in garage, almeno che sia di 10-12 ampere, se no non lo fa neanche partire, succhia un sacco di ampere quel compressore. Oppure lo devi collegare alla macchina, alla batteria della macchina, con le cavo accendisigari, capito? Beh, io compressorino ne avevo già uno da parte che avevo comprato dai Negritti e funziona bene, solo che è lento, lo ci mette un po' per gonfiare. Questo già va bene, già è anche veloce questo, e ti gonfia, c'ha il manometro piccolino inserito e puoi leggere lì la pressione. Capo. Avanti Torino. C'è anche Natalino. Avanti Natalino. Ehi, hai pizzina questo Gianni, è pochettino veloce. E così mi hanno segnato a me. Vabbè, però bisogna lasciare un po' di bianco, se no. Oh, sovramoduli gli altri, oppure la gente che vuole entrare non può entrare perché stai parlando tu. Tonino, avanti. Ok, ho finito di scrivermi tutto, così ci butto via tutti questi fogliettini svolazzanti e mi ho riscritto tutto. Mo salviamo e siamo a posto. Dai, così almeno sei a posto, puoi consultare ogni qualvolta ti serve. col telefonino è ottima quella, l'applicazione delle note, no? Entri e praticamente ti metti, io mi scrivo anche per esempio macchine, scadenza assicurazione, e ci metto la targa della macchina, l'altra macchina, perché avendone due ci penso io, assicurazione, bollo, mi metto tutte le scadenze, quando ho cambiato le gomme, se ho fatto l'inversione, metto i chilometri, fatta inversione, tale data, capito, in tale macchina, se no ti dimentichi di tutto, perché abbiamo troppe cose da ricordare. Come fai a scrivertele da qualche parte? A volte sei fuori, te ne dimentichi, invece il cellulare ce l'hai sempre appresso, quindi entri, tra, scrivi e aggiorni e ti ritrovi tutto lì. Io lo uso parecchio. Sì, è vero, servono queste cose, saperle, ricordarsi sempre tutto quanto per bene, dai. Io adesso devo mettere le pastiglie di dietro, perché il freno a mano non mi sta più tenendo bene. Ah, ma ti pongo una portante a te, mi. Chi è costei? È uno prepotente, saluto l'amico, non mi ricordo come si chiama, però ci siamo già sentiti. Vabbè, prepotente allora, già fredicretto io. Comincia intanto a tremare, guarda il segnale che subito tra un attimo sale, così ti faccio passare tutta questa arroganza, ragazzaccio. Ciao Bru, ciao, buonasera. Già ti spieghi allora. Io sono tutto tremato. Ma bisogna di dove, ma non vedevi per trovare su, vabbè. Mi manco di come ti vuoi, sono con tutta dolore, Bru. Mi ascolto, piacere, non parliamo di tutti, Senti, però non mi ricordo l'amico, ci siamo sentiti l'ultima volta, una ventina di giorni fa. Io mi sento contento, ma ti apro la macchina e me ne vado in giro, adesso sto salendo verso Filigheto. Ma te ne la vicino a casa, mica ti brucia il baracchino, mi. O Bruno Uragano. Natalino, guarda che vengo lì e ti spezzo le braccine, già lo sai. Vieni. E vengo anche con una bottiglia di grappa, così ti piego anche le palestre. Sì, allora sei ingagnoso tu quando fai così. E beh, io quando c'ho uno scappo discreto, in qualche modo lo devo battere, o con la grappa o con qualche cosa. Ciao Bruno, ben sentito. Eia, mi prendi, l'amico, non ricordo come si chiama, mi prendi tu già. Eia, Carlo, l'amico è Bruno. Sì, chiamo anche a Carlo, siamo sentiti qualche volta, conosco la sede di Carmelo nella fase della botte. Ok, sto salendo adesso, Brucio già, sono questo vicino a casa tua, tiro su e vado verso Filigheto, così mi sentite tutto. Sì, se sali qua da queste parti, ma già ti sentiamo bene anche adesso, dove sei arrivato? Uno, buonasera, Carlo da questa, ho detto dove sei arrivato? Sono sotto casa di Gianni in questo momento. Esci di lì da sotto, se no ti dà pure la casa. Guarda che io ho un sistema per abbattere, e a capire come faccio. Vado con la porta di fronte che c'è da te, con un portatile, e ti rovino la vita. Ma quella porta c'è vicino a me, non te ne fa fare queste cose. Perché anche con me c'hanno una bella confidenza. Ma io lo faccio di nascosto, vado con una studente del locale, le porto il portatile, e così quando tu sai, ecco, tutto sotto, beh. Va bene, riprendi l'amico Carlo. Sì, se stai salendo su verso Filigheto ti sentirò anche meglio, ma qua mi stai arrivando Santiago 8, Adesso sono alla Forestale, non so se conosci via Prati. Sì, ha aumentato di brutto anche il segnale, adesso 9 più 30 qua. Perché c'era Jaime sicuramente, che quando parlavo metteva la portante per abbassare il segnale, perché è molto invidioso. Sarà così. Mi Bruno c'ha la mini turbo, sta modulato con la mini turbo, Carlo. Va bene Bruno, da mini turbo. Sì, tutto sommato, ma mi sentono un po' dappertutto, anche se è un baracchino così per la macchina, niente di speciale, poi sai, i baracchini vecchi non è che abbiano tanto vantaggio, però ripeto, ho parlato qualche volta con l'amico di sotto, quell'altro, siamo già. Diciamo che va bene, dai. Sì, io ne avevo un'altra ma l'ho levata perché non, non funzionava bene, adesso ne sto usando una di quelle lunghe e va decisamente meglio. L'ho sistemata con la base magnetica, ce l'ho nelle portabagagli, ogni tanto la metto sulla cappotta e già modula bene anche la mia. Riprendi pure, Bruno. Sì, guarda, io adesso sto usando quella, che non è tanto sulla cappotta, però lo sai cosa ho? Non so se tu sei vecchio CB, non ci conosciamo molto. Gianni già lo sa perché con lui ci siamo conosciuti in frequenza, almeno penso, non dico 50, ma almeno una quarantina d'anni, ma anche di più. E una volta c'era la vecchia Colibri, quella frusta gialla che all'interno della volta c'era una carica molto alta. Io ho quell'antenna lì e oggi però non l'ho piazzata. Allora, quell'antenna va ancora meglio di questa, perché io ho parlato con un amico di Alghero, sempre da questa zona qua, e mi sentiva, ma insomma mi sentiva con la Colibri, con questa non mi sentiva. La Colibri era bella antenna. Io me la ricordo dopo l'antenna, e a voglia che me la ricordo, un giallo ocra e tipo arancione, dai. E poi la molla ce l'ha, e poi finisce fine, già me la ricordo come antenna. Quella è una bella antenna, come era bella la Sigma DX che c'avevo io. Tanti break, tanti chi vuole entrare. Ti tombrecco Gianni quando stavi modulando e non risponde nessuno adesso. Poi deve essere la cambiata idea. Ma c'era Tonino, che fine ha fatto? Toni, sì. Avanti Natalino. Anche io ho una bella antenna per la macchina, la PLC 800, e funziona benissimo della Sigma. Ma cosa stiamo dicendo? Guarda, c'è la sera. Avanti, chi è? Mi riconosci, Franco. Ah, Franco. Perché la voce è più fina con questo apparecchio, che non ti riconosco bene. Non mi viene bene a riconoscerti. Magari se fai un passaggio più lungo già ti riconosco da come parli, però se fai la battuta non ti riconosco su. Mi conosci? Hai parlato così. È vero, sì. Andave. Andiamo, andiamo. Oh, boom. E chi ti l'ha deciso? Franco California, non l'hai riconosciuto? No, deve essere qualcuno di quelli entrati ieri, perché se non lo conosco io, no. Chissà, mi avevi visto. Franco era. Ma quando ci sono io per questa lui scappa. E perché scappa, Brice? Ti sento sempre modulati. Franco, sto usando baracchino, quello là famoso. E capo, io ti ascolto bene, dai, stai arrivando benissimo qua, non ci sono problemi. Quello li sto usando, solo per la macchina, l'altro... Ok, come cavolo si chiama, quell'altro l'ho portato giù, il garage lo uso a casa. Arrivato Franco. Ma tu Bruno eri amante del Tokai, che fine hanno fatto? C'avevi 5024, c'avevi l'altro, che fine hanno fatto quei Tokai? Allora, il Tokai 5024 dovevo averlo in garage da Aldo, perché sai, siamo ormai 20 o 30 anni che nel garage ci deve essere il Lafayette Constant 23B, che era quello di Aldo, e il Tokai mio. Invece non so che fine ha fatto il Tokai 5008, perché avevo 5008 quello nero, e poi io avevo anche il 506S, che era quel Tokai 5 canali portatile. Sì, me lo ricordo, un giorno sono venuto a casa tua e me li avevi fatti vedere tutti, me lo ricordo bene. Mi ricordo anche che abitavi di fronte alle poste e sono venuto a casa tua pure. Sì, fino a 3 anni fa abitavo lì. Adesso abito qui da Giovanni Pasqua, solamente. Sì, il 506S non mi ricordo proprio che fine fa, quello era bello, quello era un 23 canali, ma da quella quarzata, no, toglievo i quarti, lo modificavo, andavi su altri canali, su... erano belli quei baracchini. E so che deve essere in garage, assieme alla Fayette, al 23B, come cavolo si chiamava, quello era quello di Aldo però. Beh, perché non li ripisi, il toccaccio di rumore in macchina, lascia quanto arriva forte, perché c'ha il microfono precompresso. Sì, chissà, lo sai cosa, c'ho degli scatoloni in garage che non ho mai aperto, è roba vecchia, qualcosa l'avevo buttata via. Vediamo, l'hanno dato e hanno dato anche il Comstat 25B, era quello piccolino, il Comstat, quello valvolare, quello l'hanno dato, ma è rimasta poca roba ormai. ho buttato via le antenne. L'unica cosa che ho fatto di male, che 6 o 7 anni fa, quando ho svuotato la cantina, che ero 35 anni, non ci arrivo, avevo buttato via la Grand Prix. La Grand Prix era un'antenna bellissima. Avanti. Buonasera a tutti, a tutta questa parte. Ciao Antonio, ben sentito. Avanti Carlo. Ciao Antonio, buonasera. Era Bruno Uragano. Sono nuovo, non ci sentiamo, non ci conosciamo, comunque ben sentito. Bruno, è da poco questo strano, sono nuovo, per cui forse ci siamo sentiti qualche cosa così. Ok, Tattarino, viene fuori. E mica non sono nascosto, mi. Se quando sono arrivato io ti sei nascosto, non rispondevi? Non ho mai paura del segnale. Ah no, già sono qua. No problem. Tu già lo sai, quando ti sento già entro sempre a salutarti. Già lo sai, mi fa piacere. Franco, ma domani mattina ci andiamo a pescare? Franco! Bruno, un attimino dai, che vado a spegnere il caffè, sennò mi si brucia tutto. Non lo so, possiamo organizzare, possiamo andare, non ci sono problemi, capito? Il tuo burro ghiaccio può andare male. Mi prendi, Gianni? E infatti ascoltando ti stavo, il tuo freddo mi fai andare a picca, va bene che a prendere calamari e sippi, va bene adesso. Solo che prende anche freddo. Io ho un amico che si è azzardato ad andare a prendere calamari e si è preso una Parigi pescando. Ha fatto il tempo e poi arrivi a ripidare. Tutta la parte destra l'ha presa. E quella è la parte con la quale tirava fuori i calamari. Così imparano a voi. No, stavo scherzando con Franco perché ci vediamo spesso giù, lui lo tenuto al camper, e ci abbiamo altri amici che hanno camper e stiamo lì in una zona sempre a mare, per cui non appena possiamo piazziamo subito le canne da pesca e ci facciamo un tempo. Adesso io tutta la settimana che non scendevo. E vabbè. Avanti l'amico che era Carlo? Sì, Franco, quindi tu anche a pesca vai. È andato a chiudere il caffè, a stagnare il caffè. Sì, Franco è un appassionato, con lui ci conosciamo tantissimo e penso almeno una quarantina d'anni che ci vediamo in zone di pesca, poi siamo stati vicini di casa per tanti anni, per cui siamo vecchi amici, vecchi però. Quindi tu Gianni un attimo che devo rispondere un attimino. Io. Vabbè, un periodo già andavo anche io a pescare. Ne ho pescato di bei pesci, di belle seppi, orate, di tutto di più. Da quando sono così con i dolori ho paura che magari prendo freddo aumenti i dolori, capito? E anche io sto andando poco, purtroppo mi sono. Io vabbè, lui ce l'ha fatta la vita perché ho un problema di osteoporosi e ho un problema cervale, per cui quando sto bene scendo, quando no, adesso questa settimana siccome una frattura alla costa sono stata la settimana bloccata a casa, ma domani mattina a me una passeggiata non la faccio, mezzo busto, figlio, parto perché sono stufo di stare bloccato a letto. Vabbè, io ho un problema cronico con la testa. Però ripeto, non appena posso, mi Franco lo sa, tutti i giorni c'è una platamona, tutti i giorni, non c'è un giorno, basta che la metto a piedi, piglia e passa la zona di mare. E tu sei anche tuo padre da pescatore, quindi magari c'hai il brutto nel sangue, dai, il coso del mare. No, anche a me piace, la verità, a me il mare mi è sempre piaciuto. E io ho la coxartrosi, e non ti dico altro, mi hanno operato da poco la gamba, per cui mi hanno messo la protesi e adesso ci sto riabilitando piano piano, già ce la sto facendo. Lo so, nel caso mio purtroppo non si può fare niente, ho più di 40 anni io mi curo perché per me l'osteoporosi non può essere neanche operato, non si possono mettere niente, infatti con i crolli vertebrali che ho io è molto brutto perché lasciamo perdere e poi niente. E poi non sto più andando a mare come andavo io avevo la barca, ci andavo motoscafo fino a pochi anni fa, ho dovuto mollare il mare, e come ho mollato la barca, io ce l'avevo tutta una vita all'alghero, non ce l'avevo qua, è come che me ne è stracciato una gamba, un braccio, sono un uomo morto senza il mare. a Roma, accanto all'altro, non so dove c'è la pesca, me ne vado a Platamo, vado a mangiare i pesciolini. Ah, l'ingrazio, poi vado io e me li pesco. Ah. qualche volta di tanto in tanto capita qualche pezzo buono, ma non c'è più niente, dico. Quando di tanto in tanto ci vediamo qualche anno, mia moglie, andiamo a pescare con le zone. Ma ripeto, se trovo un amico che sta facendo in barca, mi butto dentro, andiamo, torniamo. Però quando non è la barca tua, che a tutti i momenti puoi andare a tornare. È andata così, è vero, ho venduto tutto, sono tentato, non ho più niente. Oh, e non ne voglio davvero. Vediamo se è diventato Natalino. Siamo qua. E che c'era questo cane che sta rompendo le scatole tutta la sera. C'è la macchina al cagnolino, lui. In questo momento c'ho. Cagnolino non mi fa compagnia dentro la macchina. E fuori dalla macchina c'è un bel cagnone grande, signore, che gira intorno. Perché sono qui in una campagna sulla Felighese, una strada molto in alto, mi sono messo dentro tra un cantiere e l'altro, in una campagna, ho paura, o esce il padrone, e se esco io questo cane mi divora. E deve essere che ha sentito che ho il cagnolino in macchina, e c'è un cane enorme, 3 ore che gira attorno alla macchina. Ma non è che sta facendo il guardone dove ci sono le coppiette, no? E ho portato il cagnolino perché è un guardone, allora lo metto lì e si guarda le coppiette, le cagnette si guarda. Ah, pensavo stai dicendo che ti ho fatto il cannocchiare. Sì, già, solo quello mi manca, il resto ce l'abbiamo, ce abbiamo tutto qua, mi manca solo andare a fare il guardone. Per carità. No, io vado dall'altra parte, invece che a Filigrino vado dall'altra parte, no? Dove c'è il belvedere, diciamo. Mi metto lì di fronte, però di giorno, di notte non ci vado, ci sono le coppiette, tutte le mie coppiette. Sì, vabbè, quando c'è macchina tua, ti ho dato prezzo. No, il problema è che io seguo questa zona, perché la zona qui è molto alta, per cui a me non mi sento un po' meglio, perché se io vado alla zona bassa dove abito io, Giovanni Pasco, magari c'è qualcuno che mi sente un segnale brutto, per cui salgo qui, lo faccio una volta, c'è roba di paio di settimane che non salgo qui, perché in casa c'è quella... Quella cosa si chiama la boomerang, quella che ho comprato la Fusao da 3 mesi, che va anche bene, però ogni tanto mi piace uscire anche in macchina, ogni tanto per registrarmi, dai. E anche a me, io però me ne vado verso il quadrato sempre, vado sul quadrato, lì, tranquillo, quando fumavo mi fumavo una sigaretta, adesso non fumo nemmeno più, voglio una caramella, una cosa, e faccio ascolto lì, sto seduto lì tranquillo, ogni tanto la metto in moto la macchina per scaricarsi la batteria e via. Sì, vabbè, ma per mezz'ora no, non mi fa niente. Non fa vedere le caramelle che sono a dieta, sto male. Sto male perché io voglio mangiare, ma la dietologa non vuole, mi sgrida. E allora, anche io ero quello che stava sempre le caramelle nel macchina, le caramelle, le benzine. Guardate c'è troppo casino, invece dove andavo io? Salivo da lì e tiravo dritto e andavo verso le querce. L'ultima volta sono andato alle querce lì, c'è un bello spiazzo, si sta bene, non si rompe le scatole di nessuno. E io da quello spiazzo lì avevo parlato con Londra dalla macchina. Sì, ma lì è zonato, poi si trova in propagazione. Io la settimana scorsa c'erano questi spagnoli che non mi facevano sentire gli amici della città. Se c'è propagazione buona ti diverti. Da quella zona lì è una zona molto alta. E poi lì si sta meglio, mentre qui dove sono adesso c'è un cancello avanti, uno dietro. E siccome c'è una villa per non si accende, magari chissà, la penseranno, qualcuno un po' viene col fucile. E vabbè, non ne dice mai niente un pizzo, pensate che lo si comporti bene. Che lo so, ma sai, stai parcheggiato di notte così, degli ingressi, magari pensano che è detto che è va bene, Franco, aiuto. Franco, cosa farà? Carlo, riprendi. Ehi, riprendo, ma devo chiudere perché non mi ero accorto, si è fatto tardi e mi stanno chiamando che hanno... voglia di cenare qua. Vabbè, ci sentiamo, saluto Gianni, Natalino, Bruno, Franco, Tonino se è ancora in ascolto e tutto los otros. Ce la sentiamo alle prossime, ciao. Ehi, ciao Carlo, dai, ci sentiamo, grazie per la serata e ci sentiamo domani, dai. Avanti Bombolo, tocca a te. Ciao Riccardo, ciao, Bruno, avanti. Ok, saluto Carlo, a risentirci. Vabbè, proviamo a vedere se è diventato Franco, se no, perché stava prendendo caffè. Franco, ci sei? No, quello lì è un mascalzone. Riprende Natalino. Cappa. Adriano. Riprendendo per il QSO. Ok, ciao Carlo, buon proseguo, buon tutto, grazie per le quattro chiacchiere, dai. Riprendi Bruno. E ok. E che dire? Aspetta che devo tirare fuori il pesce, c'è una canna che si sta muovendo, riprendi già. Eia. Che tipo di canna accendi? Kappa. Vabbè. Si è fatto già tardi, fra poco anch'io vi devo lasciare perché devo mandigare. Vabbè, devo fare anche da mangiare al cucciolo. E te ne sei uscito tardi, Bru, stasera, hai fatto il pipistrello. No, ma sei uscito anche prima, il problema è che molte sere guardo, non c'è nessuno. E alla fine non neanche ne sto più accendendo perché, ripeto, se trovo qualcuno, anche l'altra parte di sede fa ho chiamato qua su 23, non c'è mai nessuno, per cui stasera con la scusa di fare un giretto a macchina, una sua macchina se c'era qualcuno. Se io sapessi che c'è gente sarei entrato più spesso, ma molte volte non c'è nessuno, capito, vediamo un po', che una volta mi servavo per rimanere in rotta. Infatti non è portato perché non si poteva parlare, adesso invece mettiamo un articolo in giornale e fa rientrare qualcuno. No Bru, siamo ogni sera noi qua sul 10, ogni sera ci siamo. Fino alle 8 io poi vabbè mi guardo il telegiornale, alle 8 e cose, poi c'è gente che rientra anche dopo le 8. Io vabbè ceno, mi guardo il telegiornale e poi mi guardo il televisore, non sto più tardi, capito? Okay. Allora, secondo me sta per arrivare a Castellana, il Napo, oh, bello, sta qui, è tutto buio, figurati il Napo, bene. Molto bene, va bene, allora, chi è arrivato? È stato Natalino, ma io avete nominato Tonino, ma Tonino lo sentite, Tonino mi senti? Voglio salutare, ma chi è Tonino Cavallacchi? Sì, è entrato, poi non è più entrato, non so cosa sia successo. A lui è un po' che non lo sento. Vabbè, ok. Franco, rientrato, sì. Franco, certo, riprendi tu. Io mi sono dimenticato di salutare Antonio Bombolo. Ciao Antonio. Saluto a da parte mia. Già ti ha sentito. Ciao a te. E allora Seminoghi, io riprendo per salutarvi tutti perché adesso se parlo disturbo quello che c'è guarda la televisione, quindi non posso parlare, dai. Al limite vi ascolto e ascolto il vostro finalino, dai, ci sentiamo alle prossime. Breche. Ciao Natali, buon quirix, ascolta, avanti Breche. Buonasera a tutti, Daniele da questa parte. Cappa, ciao Daniele, dai, rilancio per saluti a Natalino e poi vedo a te. Avanti Antonio per i saluti a Natalino. Ciao Natalino, ciao a tutti. Questo è Danielito. Buonasera a tutti, ciao Natale, buon QRX, dalle prossime se coincide. Qua sono Antù, ho acceso dopo secoli che ho avuto 5 minuti di tempo. Scappa Dani, a noi ci fa sempre piacere sentirti, fatti sentire più spesso. Lavoro permettendo già, cambio a modo, accendo, che non perdo tempo per farlo. Scappa, dove stai lavorando adesso? A Ploaghe. Atta, così lontano. Lì ho trovato. Ah, stai facendo di bello. No, 118 lì sto facendo. Ah, 118, capito. Ma non è la parte a Usilo. Sono anche lì e poi tramite Usilo sono finito a Ploaghe. Ah, ecco, capito. Andava, l'interessante è fare quello che ti piace fare, dai. Avanti Bruno. Ehi, andavo in travaglio, sono in Russia. Oh, io l'ho fatto anch'io quel lavoro, ma quando l'ho fatto io, più di 30 anni fa, era un famoso volontariato, adesso non esiste più. Però anche io ho guidato 2 mesi e è stato un bel momento, è stato bene, è stato un amico. Io l'ho fatto per la valetta di 17 anni. Io penso solo che ho cominciato quando è nato il polisoccorso, ero con loro. Poi l'ho fatto sempre il servizio di radio, ho fatto con l'ISOM, insomma, questo ho fatto tanti anni. E questa è stata il mio esercizio fondatore del CISOM. Non so neanche se c'è più. E poi ho fatto altre cose private, diciamo, è stato un bel periodo, poi con la storia lavoro e tutto mi sono ritirato. Ma il CISO è quello di via Pirandello oppure dove? Vabbè, quando abbiamo cominciato noi, io ho cominciato nel 1980 con Varrazza ad Alghero, perché il CISO a Sassari ancora non c'era. Poi ci aveva proposto lui a Sassari e l'abbiamo fatto io